Europa 24. From the concentration and the extermination camp here in Auschwitz, created by the Nazi regime, in Polish areas annexed by Hitler, I'm paying tribute to the International Holocaust Remembrance Day. We say, always remember, never forget. It is out of this horrific memory that the cause of the European Union was born. A dark page of European history and humanity is here. Un saluto da Anna Migliorati. L'avete sentito, è toccato al commissario europeo Avramopoulos portare omaggio oggi a tutte le vittime dell'olocausto nel campo di Auschwitz. Nessuno dimentichi, ha detto, e poi il messaggio che si va ripetendo a Bruxelles in questi giorni. L'Unione Europea è nata qui, da questa tragedia. L'omaggio dunque anche delle istituzioni europee nel giorno della memoria, mentre in Europa si discute del futuro dell'Unione, riuniti i ministri economici europei, non c'è solo il caso Italia, ma indubbiamente i nostri conti sono sotto i riflettori. Vertice che si è concluso da pochi minuti, sentiamo cosa è emerso da Bruxelles. È una trattativa molto politica quella che si sta svolgendo tra Roma e Bruxelles sul futuro del bilancio italiano del 2017. La Commissione europea ha chiesto di correggere l'andamento dei conti pubblici perché attualmente è in violazione del patto di stabilità. Il governo italiano cerca di trovare soluzioni per evitare manovre impopolari. Nonostante il clima nervoso che rimbalza sulla stampa e in televisione, il negoziato diplomatico prosegue. A Bruxelles c'è comprensione per l'Italia a causa dei numerosi terremoti che hanno colpito il paese in questi mesi. A pesare sulle trattative è probabilmente la situazione politica italiana. Nella maggioranza che appoggia il governo Gentiloni c'è chi vuole lo scontro con Bruxelles e punta ad elezioni anticipate, cavalcando un certo euroscetticismo, e chi invece preferisce trovare un compromesso pur di evitare una nefasta procedura di infrazione per debito eccessivo. Beda Romano, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Bruxelles. E a confermarlo poco fa ci sono state anche le parole dello stesso ministro Padoan. La Commissione aspetta una risposta, il 1 febbraio questa risposta arriverà. Innanzitutto la tragedia e la continuità, ahimè, di questa tragedia, e quindi il fatto che l'Italia spenderà quello che serve. Una procedura di infrazione sarebbe un grosso problema per l'Italia in termini di reputazione che in questo periodo recente ha rafforzato e costruito, quindi una procedura di infrazione sarebbe un'inversione a U rispetto a quello che è stato fatto fino adesso. E intanto sul fronte economico, il reddito pro capite delle famiglie europee in termini reali è cresciuto più 0,2% nel terzo trimestre, dopo essere cresciuto in maniera analoga anche nel secondo. Secondo i dati Eurostat, nell'Europa 28 l'aumento del reddito pro capite è stato dello 0,1% più 0,7% i consumi, ovviamente con tutte le differenze tra paese e paese. Si parla di giustizia intanto anche in Europa, il giorno dopo l'inaugurazione in Italia dell'anno giudiziario in Cassazione, a Malta oggi vertice informale dei ministri della giustizia europei e il ministro Orlando ribadisce una delle richieste più forti che arrivano anche dalle toghe italiane, la creazione di una procura europea. Ci aspettiamo qualche riapertura su un dossier di grande importanza come quello della procura europea. Proseguito in questi mesi senza una grande convinzione, a nostro avviso senza una grande ambizione. Ora speriamo che il fatto che alcuni paesi che avevano più resistito a questa idea, che il fatto che questi paesi siano sfilati consenta una cooperazione rafforzata con un'ambizione più forte. Generazione Erasmus, questa è l'Europa e allora vi diamo anche altri dati, un bilancio più che positivo a 30 anni dalla nascita dell'Erasmus, forse il più famoso tra i programmi europei che sposta centinaia di migliaia di studenti in tutta Europa. Gli ultimi dati, nel 2015 678.000 le persone che hanno partecipato, Italia tra i paesi più coinvolti, quinta per il numero di arrivi, quarta per le partenze. Da Anna Migliorati intanto ancora un saluto, ci fermiamo qui, ma come sempre l'appuntamento questa sera con Europa Notte. Europa 24 in collaborazione con Euronet Plus.